A Parigi sono andato e una notte t'ho incontrato, camminando piano piano sulla Senna. Eri bella, bella, ed ora non riesco a dormire. Sono tornato al mio paese dopo poco più di un mese, la pianura mi strozzava piano piano. M'aspettavo il tuo ritorno senza fiato, stavo per impazzire. Tutta notte ti ho aspettato sotto un palo della luce, con la nebbia che scendeva piano piano. Tu non c'eri, non ti ho visto, ed ora non riesco a dormire. Grande la pianura, mi mette un po' paura, l'inverno con la nebbia senza te. A Parigi sono tornato dopo una settimana, t'ho incontrato che facevi la puttana. Parigi e Val di Fassa, molta strada ce ne passa, e non è solo questione di chilometri, che non riesco più a trovare amore. Aiutami dottore, sono passati 16 anni di rimorsi e tentazioni, e di danni io ne ho fatti già milioni, ma non posso più scordarti amore mio. Non riesco a dormire, dottore, faccia lei, mi faccia un po' dormire. 16 anni svegli a pensare a una donna di malaffare. Parigi, Parigi, vaffanculo.